Ah, l'hai compreso allora il discorso, l'antifono. È perché le macchinette e i giochi d'azzardo, perché li tieni, come si chiama, li tieni in circolazione sapendo che c'è gente che si ammala, distrugge la famiglia, crea degli atti criminali, eccetera? Perché permetti di metterle in funzione le macchinette d'azzardo? Spiegamelo tu. Le sigarette ci sono giri di miliardi nello Stato, perché hanno il monopolio, prendono una barca di soldi. Tu invece fai tutta la campagna come l'hai fatta per il Covid, bombarda la televisione ogni 5 minuti dicendo e fai vedere tutta la gente che muore. 300.000 persone all'anno muoiono, tutti gli anni, da non so quanti anni. Che cacchio te la dire il Covid, perché sono morti 40.000 persone, sì, giusto, muoiono. Molti sarebbero morti comunque perché avevano patologie gravi. Poi ci sono quelli che sono stati mal curati perché hanno sbagliato le cure prima di fare l'autopsia. Adesso guarda quanti ne muoiono in estate, perché il virus d'estate finiscono, muoiono. Aspetta di nuovo a novembre, dicembre, gennaio e febbraio, cosa ne esce? Tu che sei vaccinato ne riparleremo. Ricordati di queste parole. Ripeto, tu sei libero, tu, io accetto tutto quello, però non ti dà nessuna libertà, come non ce l'hai amato la libertà. Mi ricordo a Natale scorso, a novembre facciamo sacrificio per uscire a dicembre, nulla, non siamo usciti né a Natale né a Pasqua, ricordate delle parole mie. Lo so già lo so come funziona, però vedo anche un altro lato, vedo da parte del governo. Tutti questi incentivi che stanno dando ultimamente, e qua, e là, sto osservando io, ogni giorno ce n'è uno nuovo, e adesso facciamo questo o quell'altro. Sto per tenere la gente buona, mi. Ma tu ti rendi conto a che punto sono arrivati? Se fosse una cosa talmente grave, io persona capisco la gravità della malattia, perché nel presente c'è la malaria, muoiono sui 3-4 milioni di persone all'anno nel mondo di malaria, e non si sono mai preoccupati di quanti ne sono morti con questo Covid, che ne sono morti molto ma molto di meno. Purtroppo la malaria succede in paesi africani, normalmente in paesi poveri, non ne ha fatto nulla nessuno. Questa è una cosa, le televisioni sono tutte da una parte, perché non c'è una trasmissione televisiva o radiofonica a parte una solo, o su internet le trovi l'informazione diversa. Tutti quelli che intervistano, tutti favorevoli per il vaccino, tutto perfetto, perfetto, però non intervistano i professori, quelli i primi Nobel, da quella gente, di fare un confronto con quei buffoni che ci sono alla televisione, che sono pagati per dire la verità che vogliono loro. Mettili a confronto con quello francese o con quello americano, eccetera eccetera, dove ci sono premi Nobel specializzati in malattie infettive, in virus, eccetera eccetera. Falli parlare e ti dimostrano che stai dicendo fesseria, che non si fa mai un vaccino alla popolazione in caso di pandemia. Gli effetti collaterali che possono verificarsi sono assolutamente pericolosi a lungo termine, non lo sappiamo. Purtroppo la gente è disinformata, si fida di quello che dicono, e dobbiamo farlo tutti, tu sei egoista, ma che cacchio egoista, noi vi abbiamo fatto lavaggio del cervello, e quello è il problema. Tutte le previsioni sono tutte pagate per mandare spot pubblicitari, lo sai quanti soldi danno alle televisioni, le industrie farmaceutiche per pubblicizzare, per adesso vedi Mancini, Del Piero, Guidate fanno le pubblicità del corso di vaccinati, ma ti pare un altro corso deve arrivare a dire una cosa del genere se è veramente una malattia pericolosa? Se fosse una cosa pericolosa tutti ce lo farebbero automaticamente, come ci hanno fatto l'antipolio, l'antitetanica e tutte quelle malattie che ormai non esistono più, che i vaccini ormai sono scomparsi. Che cazzo stiamo a dire? Lo so. La tetanica l'ho fatta quando ho fatto la cosa del lavoro io. Sì, ma è così, Adesso, cioè, puoi avere ragione, Robè, di certe cose. Allora, non a cagata, secondo me l'hanno fatta una cosa tanto grande. L'hanno fatta. Ecco cosa è successo, che si poteva evitare. Ma certo, cioè la cosa è ridicola, tu hai chiuso nel periodo natalizio, che hai distrutto delle attività che lavoravano, quelli facevano i cenoni di Capodanno, cioè quelli le hai distrutte, che vivevano solo per quello. Per fare un esempio, non parliamo di bar, ristoranti, eccetera, eccetera, oppure tutte le attività turistiche che sono nel periodo estivo, hai distrutto tutto quanto e non è cambiato niente, perché l'anno scorso i morti ad agosto, se tu ti guardi le statistiche, i morti che ci sono stati ad agosto e contagiati di agosto, pur adesso tutti i vaccinati, tutti molti vaccinati, sono molte più persone quest'anno che l'anno scorso, e ci sono più contagiati quest'anno che l'anno scorso, pur non essendo, noi eravamo a luglio, eravamo tutti liberi, ti ricordi, tutti senza mascherina, tutti in giro e tranquilli, non ne usavamo più da fine luglio. Certo, quest'anno che siamo ancora con la mascherina, tra poco siamo a settembre, eppure sono aumentati i contagi, che non significa niente essere contagiato, perché se sei asintomatico, e il problema è che sono aumentati i cosiddetti multi, si svegliano la mattina e oggi ne sono multi 5A, e beh, di cosa sono multi? Cosa ne sappiamo, sono multi per il Covid o con il Covid? Sono due cose diverse. Ogni persona che muore quest'anno non è morto uno chissà di tumore, di infarto, non se ne dice più, tutti quelli che sono tutti morti, guardi le statistiche, sono tutti morti di Covid, e tra l'altro tutti dalle terapie sono tutti, come si chiama, non vaccinati, che quella è la cosa più ridicola, perché li hanno spostati in altre reparti quelli che hanno il vaccino contagiati, lasciamo perdere. Dopo, ripeto, la televisione racconta un sacco di balle, la gente si è fissata di queste cose. Metti a confronto le persone veramente, non io che non so niente, dei professori, dei ricercatori, li fai parlare, li confronti come fai tribuna politica che metti destra con sinistra, e uno risponde e vedi cosa ne esce fuori. La gente alla fine riverrebbe il dubbio, non lo fanno perché non li conviene. Ma di nuovo quanto. Capa, no, io cioè sì, ci sarà fatto questo Covid, questa cosa così, come si dice, però hanno esagerato anche tanto, cioè hanno buttato troppe sentenze sbagliate, hanno troppo esagerato, hanno robe, perché io me ne sono accorto che è così, non è che, cioè. Non so, tanto però ti sei fatto il vaccino, è quello che fa ridere, lo sai quanta gente si fa il vaccino per la libertà, dice così siamo liberi, non perché creda nel vaccino, la maggior parte delle persone non crede al vaccino, io ho miei figli, non sono fatto perché dice così almeno non ci viene il Covid, perché siamo liberi, cioè la libertà loro stanno cercando con il vaccino, cioè ti stanno comprando la libertà col vaccino, la cosa più brutta è quella lì, e non cambierà niente, perché tu le mascherine ce l'hai uguale a me, quando entri nei posti ce l'hai uguale a me, negli stati se devi entrare entri, se sei vaccinato e c'è il 50% di posti allo stadio o 25 ai palazzetti, io mi faccio il tampone, sono negativo ed entro lo stesso senza vaccino, e il tampone è più sicuro, sicuro relativamente, perché anche il tampone è una cosa un po' ridicola, devi farti un esame del sangue per avere più o meno una certezza, non dico assoluta, ma una certezza più sicura, diciamo, per cui è tutta una presa per i fondelli, non parliamo di tutto quello che hanno rovinato, tutte le attività che hanno chiuso, tutte le persone che si sono ammazzate o tutte le persone che si hanno preso problemi psichiatrici, di coso, di depressivi, eccetera. Considera quello. E cosa costa allo Stato curare queste persone che hanno avuto questi problemi, a parte quelli che si sono ammazzati? L'INPS ci aveva guadagnato 2 miliardi di euro dalla gente che è morta, tieni presente solo, dal Covid, il cosiddetto Covid. Ah, boh, hanno cominciato variante qua, variante là, la variante di Lugasino. Cioè anche questa cosa a me mi putta un pochino, la verità. Ma penso che sia l'ultimo che faccio, E guarda che se continuo a rompermi le balle non ci vado più. Tanto ti costringeranno, no? Forse non hai capito, se tu vuoi lavorare devi entrare in quell'ufficio, devi entrare in quella banca o in quell'aeroporto, devi avere il Green Pass, il Green Pass che tra l'altro è una cosa, anche quella ridicola, che esiste solo in Italia, perché se tu vai in Germania, solo in Francia l'hanno fatto, in altre nazioni non esiste. Io quello che voglio capire è come mai, e nessuno lo spiega, in Israele 85% vale vaccinati, in Islanda oltre il 90% della popolazione è vaccinata, stanno aumentando i morti e sono aumentati i casi di Covid. Spiegatemi, quello lì dobbiamo far spiegare a tutti quelli simpaticoni che ci sono alla televisione. L'ha spiegato benissimo quel Montagnier, quel francese premio Nobel, quello che ha scoperto l'HIV, non stiamo parlando di un imbecille, la persona premio Nobel, ha detto assolutamente non mai fare il vaccino quando c'è una pandemia in corso, perché si formano le varianti, in tutti i libri di medicina c'è scritto, a parte che questo non è un vaccino, è tutta una cosa da verificare a lungo termine, che problemi potrebbe dare alle persone, questo non lo sappiamo, ti prende il rischio e pericolo, però che cacchio mi stai a dire, tu mi fai ti niente, una sostanza che dopo una settimana c'è una variante, non serve a niente, ti dicono va bene, bisogna rifare un'altra dose, prima dovevi fare una, poi due, adesso siamo già alla terza dose, negli Stati Uniti c'è già la terza dose, in Israele l'hanno già iniettata dal primo di agosto, e così lo faranno a tutti, poi ci sarà una quarta dose, una quinta dose, e mi dirai, cacchio, ma perché me l'ho messa se non è servita a niente? E poi mi dirai la risposta. Avanti, la variante del Lungazzino, vale, avanti. Entra, se vuoi entrare. Che è Luca poi. Luca, sei tu dato il colpo importante. Qualcuno che ha ascoltato la conversazione probabilmente non è d'accordo, oppure se vuole entrare ci dia il suo parere, ascoltiamo tutto qua. Comunque non è Luca, ma anche non sia a casa della ragazza, perché qua sta arrivando quasi 9:20, Luca arriva più di 9:20 quando è a casa sua, sicuramente non è lui. Può essere. Ma chi era l'altro giorno, tanto quel Fabrizio che stava parlando? Fabrizio? No, c'era Cristian, c'era. No, c'era quel Fabrizio che ti conosceva e ti arrivava un bel forte. Mascherato, sì, già ci conosciamo bene. Ma cos'è, era l'amatore quello? Non penso. Allora, ma lui abita a te, ti arrivava vicino però. A me ne arriva forte, sì. Perché a Claudio dice che arrivava a Santiago 2, 3, lo riusciva a tirare con i chiudi. A me mi arrivava intorno ai 9, 9, 5, dai, una cosa del genere. Lui invece aveva un dipolo con la V invertita, magari era orientato più verso di me che verso di Claudio. Poi tu sei alla te doce, c'era di fronte, per cui probabilmente a te arrivava forte per quello. Un grido via, guardo di fronte o la te doce, io arrivo un po' forte alla te doce. Sì, cacchio, ci mancherebbe, se non arrivi tu, arrivi anche tu. Buonasera! Ah, ecco chi era, non riusciva sicuramente. Chi è? Sì, già, sono c'è, buonasera. Cosa dite che state parlando dei vaccini? Io me li ho fatti. Beh, a tutte, dai. Perché non rispondevi? Ti hanno chiamato un paio di volte. Perché non stavo uscendo il microfono, cambia il tuo microfono. Ah, così poi vai il tuo specie di fischio. Cosa c'ho? E poi distrutti solo. Il doppio bip è. Guarda per adesso se c'è. Uno solo ce n'è. Ah, vabbè, così. Ma c'è qualcuno che non se l'ha fatto di voi il vaccino? Sono l'unico io. No, vabbè, già ce n'è. Già ne conosco qualcuno qua in radio che non se ne ha fatto il vaccino. Non so. Non si fanno i nomi, cacchio. Qualcuno si vergogna, come una volta quando dicevi chi è che ha votato a Beppe Grillo? Nessuno. Chissà che l'ha votato. Io non conosco una persona che abbia votato a Beppe Grillo. Però cacchio, ha preso mi pare il 30% dei voti all'epoca. Allora, lì quello è un altro discorso, Guarda, allora, io li metto tutti a matessi di bello perché tanto, sono tutti, allora, sono tutto magna magna a peggio dell'altro, però bisogna darle anche merito di una cosa, Robè, bisogna dare merito che anche certe cose gli ha fatte giuste. E certe cose gli hanno fatte sbagliare, come quelli là, questi cosi li hanno fatti giusti e 100 ne hanno fatto sbagliate. Io li metto tutti allo stesso livello, li metto. Anto, ricordati sempre, la politica è solo una mangiatoia, almeno in Italia, ci sono ancora nazioni dove la politica è una cosa seria, in paesi non italiani sicuramente, forse ai tempi di Cavour, ai tempi antichi, ai tempi sino a Pertini era ancora un po' più tranquilla, adesso quando è morto Pertini, l'ultimo presidente che abbiamo avuto all'altezza, che comandava e si faceva sentire, è stato tutti quelli che sono venuti dopo, poi non parliamo di tutti i politici, destra, sinistra, centro, calcio d'angolo, ecco, uno peggio dell'altro, c'è solo il discorso della poltrona. La dimostrazione è stata quando hanno fatto furia Salvini, le 5 Stelle per andarsene col PD sino a un mese prima li facevano a pezzi, e poi di quel bisogna per dimostrarti chi sono, non esiste un partito serio, sono una massa di mangiatoia, di magnoni, o chiamano come ti piace. Magna magna. Vabbè, comunque, ritornando al coronavirus, i vaccini, siamo finiti in un cerchio a circuito chiuso, non riusciamo più da lì. Avvisato di esempio, ma come si chiama? Già, aspetta a ottobre, ti sto dicendo, io l'ho detto a maggio, il 31 di ottobre un amico mio di Genova c'ha la terza dose, io quando dicevano mi diceva tu sei scemo, guarda un po', non mi sono sbagliato. Sì, poi c'è la quarta, la quinta, mi sa che è tutto, è anche lì una questione di business sicuramente. Io li ho fatti perché non puoi fare determinate cose se non c'è il Green Pass, non puoi entrare in locale, io vado in pizzeria, vado qua, vado là e mi chiedono il Green Pass, se non ce l'ho non mi fanno entrare. E anche per quello che l'ho fatto, vuol dire se l'ho dato un battesimo di mia nipote sabato e all'entrata chiedevo le green pass. Sono andato in pizzeria, in una pizzeria che non voglio fare nomi, non me ne hanno chiesto. E io ti dimostro che oggi sono andato in un grandissimo locale, molto ma molto importante, a Castelsaldo, non ti dico il posto, assolutamente all'aria aperta, c'era una terrazza sul mare e nessuno mi ha chiesto niente. L'altro giorno sono andato a Olbia, in un altro locale, eccetera, eccetera, nessuno ha chiesto niente. Poi ne parleremo di inverno, magari che dovrà entrare all'interno, mangerò in piedi, metterlo in piedi. Tutti si stanno facendo il vaccino per avere la libertà. Nessuno crede in questo caso, almeno qualcuno credeva, adesso stanno iniziando a venire dei dubbi, per avere la libertà di cosa? Già, di che cosa? Che tu sei contagioso quanto me, che non me ne son fatto, è dimostrato scientificamente, ti prende nello stesso modo come per tu. Uno dice ma a me mi prende di meno, non vado nella cosa, in terapia intensiva. In base a cosa lo dici? C'è una legge scritta, una formula chimica, una formula materiale, è una biliarda per un fondo, ricordatevi le mie parole, la presa per il fondo. La gente è convinta di questo perché stanno facendo il vaccino e stanno ricattando col discorso del Green Pass, così possiamo, ma entri dove? Tu aspetta a novembre e vedrai cosa succede, siamo di nuovo chiusi. Esatto. E la colpa lo sai di chi sarà? Dei non vaccinati, non della colpa che non serve a niente il vaccino, ed è una cosa ridicola tutte queste leggi di merda che fanno. Ti ho fatto l'esempio dell'Islanda, 90% vaccinati della popolazione, Israele 85% della popolazione, sono aumentati i morti e i ricoveri ospedalieri. Svezia, nessuno obbligo vaccinale, nessuno lockdown, tutti tranquilli, stanno facendo quello che facevano prima. Ci sono dei casi naturalmente, come c'è il caso di influenza, eppure tutto libero, non hanno fatto tutto il caos che hanno fatto in Italia e negli altri paesi. Sì, ma se sono andati tanto lontano, stanno aumentando anche qua, guarda Porto Tosi, la casa di riposo, sono tutti contagiati, e non penso che gli anziani non li abbiano fatto fare i vaccini, penso proprio che in una casa di riposo siano tutti vaccinati, e ci sono gli anziani, in più c'è anche un'infermiera che è stata contagiata. Allora scusa Anto, se parlo io adesso io ti dico solo una cosa che molta gente probabilmente non lo sa o non si è informata bene. La comunità europea, compresa l'Italia e tutti gli stati aderenti, hanno acquistato non so quanti miliardi di dosi di vaccina e hanno fatto un contratto, a parte le responsabilità che la casa farmaceutica non risponderà mai di nessun effetto anche lieve o grave di collaterale, come tutti i vaccini, però in questo caso l'hanno messo per iscritto, se no non li consegnavano le dosi. Hanno detto che tutte queste dosi, indipendentemente se trovasse la cura esiste, ce ne sono 5 di cure molto efficaci e l'hanno dimostrato con tante persone cui l'hanno fatta questa cura, gente che stava morendo in terapia intensiva, gli hanno fatto questa cura e si sono salvati, in 2 giorni erano in piedi e se ne sono andati a via dall'ospedale. Li devono garantire, indipendentemente dalle terapie aggiuntive, che continueranno a comprare queste cose, perché il pacchetto dei vaccini li hanno già acquistati, non so se li hanno tutti pagati, e questa è una cosa che la gente non sa, per cui lo Stato ha interesse a fare questi vaccini, ce li abbiamo comprati e per forza dobbiamo metterli, se no cosa ne facciamo? Ce li buttiamo via, come è successo per le siringhe a 5 euro quando le vendono a 0,75, i tamponi alla Lidl in Germania costano 5 tamponi 3,75 euro e qua un tampone costa 18 euro minimo, perché sennò prendono anche 25. Fatemi un po' di giri di conti e datemi una spiegazione di questo. Per raccontare quello, io l'altro giorno al telegiornale ho sentito che per fare il Green Pass te lo devono fare gratis le farmacie. Ma sai che io sono andato a fare il Green Pass, già che le farmacie ho detto se me lo faceva, mi ha detto vabbè te lo faccio io. Mi ha preso 3 euro per farlo. E ho detto come mai queste 3 euro? E ho detto perché per la stampa. E ho detto quanto costa un foglio a 4? 3 euro costa. No, già, non gliel'avrei mandato in affanculo, te lo dico già, perché la farmacia che c'è qua, se lo vuoi in carta te lo fa 20 centesimi, se lo vuoi anche nel cellulare, e in carta te sono 50 centesimi, non fatevi fregare da questi usurai. Ma poi tu stai parlando già del Green Pass, e cosa vuol dire dei tamponi che dovrebbero essere gratuiti per tutti? Spiegami un po', un tampone non costa niente, fisicamente ha un prezzo ridicolo, e però cacchio, mi permetti di farmi fare il vaccino per forza, il tampone, tu in tutta l'età, io c'ho un amico mio che vive in Inghilterra, è tornato qua in vacanza, lui c'è tanti anni in Inghilterra, dice in ogni angolo della strada ti fanno il tampone gratuitamente, io non ho mai avuto nessun problema di lockdown, di chiusura, a Londra lui vive, io potevo entrare in un concerto, mi faccio il tampone, tampone salivare o nasale, quelli immediati, e mi dicono sì, positivo o negativo, se sono negativo entro con quello dentro da qualunque parte. Come mai in Inghilterra è gratuito, in Italia lo puoi pagare 18 euro, per non dire anche 50 euro, perché se vai all'ospedale, adesso non lo so, ma l'amica mia ha pagato 50 euro per vedere il figlio all'ospedale civile, 50 euro, rendetevi conto, l'ha presa per i fondelli. Ehi, ma vabbè, ci sono i pro e i contro, in Inghilterra, per dire, se ti ricoverano non devi pagare le giornate di ricovero, perché non esiste la S come la SL, non c'è una mutua che ti paga il ricovero in ospedale, vai all'asilo e paghi, e non ce n'è roba comunale come c'è qua, ci sono i pro e i contro da tutte le parti, roba. Allora, prima di tutto l'Inghilterra è gratuita, la sanità come è gratuita in Francia, in Germania, l'unico paese dove la sanità, parliamo a meno che non siano urgenze, emergenze, sono gli Stati Uniti, devi fare una cosa, una assicurazione a parte, però negli Stati Uniti paghi meno tasse, cioè noi abbiamo tasse più alte per coprire tutte queste spese sanitarie, però quello è un altro discorso, io ti sto dicendo, se tu vuoi tutelare veramente la popolazione, devi dire, tu vuoi entrare dentro questo negozio, vuoi entrare dentro il tram, fammi vedere un tampone negativo. Perché è inutile che tu mi dici devi avere il Green Pass per andare a coso in pizzeria a Bruno, per fare un esempio, alla città mercato posso entrare e farmi cacchi miei, nel Puma, nella metropolitana posso farmi cacchi miei, nessuno mi dice niente, così lì il virus non c'è, oppure posso prendermi un caffè in piedi, se mi siedo mi prendo, devo avere il Green Pass, ma rendete conto le prese per i fondelli di questa gente, è una presa per i fondelli. Poi ricordatevi sempre, tutti i Covid che vengono passati per Covid in ospedale prendevano, perché adesso magari anche di più, 2000 euro a paziente, l'ospedale ha interesse a dire che ci sono, soprattutto le cliniche private, casi di Covid, avere il Covid non significa morire di Covid, perché se uno muore di infarto non puoi dire che è morto di Covid, purtroppo tutte queste morti sono tutte pilotate, non c'è più un morto di leucemia, un morto di infarto, un morto di malattie di Vega, eccetera, eccetera, non ne senti più, io non ho sentito una persona con l'influenza quest'anno, datemi una, è perché ci sono le mascherine, come me se ci sono le mascherine ci sono i casi di Covid, come mai durante le festività natalizie che eravamo tutti chiusi in casa sono aumentati i casi di Covid in modo esorbitante, è normale che il periodo freddo i virus aumenta, le influenze aumentano, però tutte le influenze chissà perché sono passate per Covid, aprite un po' gli occhi e rendetevi conto che qua ci stanno togliendo la libertà, e questa è la cosa più grave, poi il vaccino ognuno se lo fa o non fa, quelli sono problemi, però tu non puoi togliere alla popolazione la libertà, qua ci stanno trattando come le pecore, devi andare in quel corridoio di lì, se no non ci sono altre vie di uscita, e la popolazione è tutta a testa bassa, ma magari c'è qualche medico e qualche infermiere che si sta ribellando, e vediamo come va a finire la scuola, perché ci sono anche i presidi oltre che gli insegnanti che non sanno fare il vaccino, e voglio vedere quando ne studia un ospedale 30-40 medici, soprattutto in ospedali grossi, come va a finire la situazione, vediamo un po', avanti a te di nuovo. E io ho sentito dire anche che stanno proponendo di far pagare a chi non si è vaccinato, se per dire si prende il Covid, lo ricoverano 1500 euro la giornata all'ospedale. Cosa significa questo? Ma cazzo, Anto, già stai parlando come ai tempi degli ebrei, ti rendi conto? Noi stiamo tornando ai tempi degli ebrei, vietate introdurre cani ed ebrei, io devo essere libero, la Costituzione vuole essere libero di prendere religione, di fare qualunque cazzo di cosa mi piace, non aderire a certe cose, devo avere la libertà, uno dei miei primi articoli della Costituzione, adesso non mi ricordo, e tu mi devi obbligare a prendermi una medicina, perché questa è una medicina, non è un vaccino, il vaccino è quando ti iniettano la malattia, e io mi faccio gli anticorpi per quella malattia, come il tetano, come il vaiolo, come la poliomielite, eccetera eccetera, qua ti stanno iniettando una sostanza che secondo loro funziona o non funziona non lo sappiamo, secondo me non funziona perché ci sono le varianti, lo dimostrano le varianti, una sostanza sperimentale che non conosciamo, non sappiamo niente e non ti garantisce niente, e tu che cacchio mi stai a dire, già finiamola. E poi la cosa più brutta, stanno discriminando le persone, cioè io che non me ne faccio di vaccino, tu mi stai discriminando come una persona che sono contagioso, un infetto, e invece è esattamente il contrario, chi si è iniettato le sostanze è contagioso, non viceversa. E poi se io ho il Covid e sono asintomatico, non ho nessun problema, che problemi ci sono per la sanità? E se mi dovessi prendere il Covid esistono le medicine, le terapie, che esistono? Bisogna far parlare i chirurgi, io ho sentito i chirurgi che dicevano che no, la gente non ha ancora capito che l'unico metodo per farsi il vaccino per volesse eliminare questo virus che c'è in giro, questa pandemia. Non è assolutamente vero, dal primo di ottobre l'organismo della sanità mondiale della cosa, mi è venuto un attacco di starnuto, ha detto che esistono 5 terapie funzionali che funzionano, una di quelle era quella con le terapie di coso, delle trasfusioni di plasma, quelle che è morto di donno, che dicono che è morto, secondo me l'hanno ammazzato, perché non è possibile, chissà perché sono morte tutte queste persone che hanno curato la gente, ha curato 4.000 e passa persone, di persone molto ma molto gravi, informatevi quando hanno fatto i funerali, c'erano delle persone curate da lui, hanno detto io ero in ospedale 15 giorni e mi hanno detto che potevo morire uno tra l'altro. Gli ha fatto la terapia col plasma, in 2 giorni se ne ha alzato le proprie gambe e l'hanno dimesso. Spiegatemi un po' questo. E lo stavano tenendo intubando, eccetera, eccetera. Dopo che hanno sbagliato tutte le terapie, prima con l'ossigeno, vi ricordate, per non fare un'autopsia, quanta gente hanno ammazzato? Non stiamo a dire. Il vaccino non è una soluzione, ce ne sono altre. E poi se tu ti vuoi fare il vaccino, se vuoi fare. Però non puoi obbligare la popolazione a farsi una vaccinazione se non è d'accordo. Io se mi ammalo, ci sono le medicine. E poi se sono sfortunato che muoio, a te. Ma puoi morire anche tu che ti hai fatto il vaccino, ricordati, tante persone sono morte a seguito del vaccino. Oh, staremo a vedere, avanti a tu. Guarda, come tutte le cose stanno esagerando, uno si fa di vaccino e cose, cioè dovrebbe essere una cosa un po' più, invece vuole esagerare, lasciamo perdere, va che è meglio, avemo gli enti mancanti, avemo. Ne stanno combinando tutti i gurori. La cosa brutta, scusa di nuovo il monopolio, è la disinformazione, perché io posso ascoltare tutte e due le campane, quello che dice una cosa a favore, però mettimi anche in condizione di ascoltare gli altri, e poi io valuto le mie cose, dice mi voglio prendere i rischi. La cosa più brutta è che vogliono farci vaccinare i bambini, quella è una cosa assurda, è una cosa gravissima, un bambino che è ancora in fase di crescita, gli anticorpi non si sono completamente sviluppati, eccetera, tu mi costringi un bambino per entrare alle elementari, adesso alle medie, a entrare alle elementari di farsi il vaccino, che non si sa, tra 10 anni quel bambino probabilmente non gli succede niente, probabilmente, ma può succedere qualcosa, qualche malattia nuova, qualche cosa che magari l'antibiotico non ti fa guarire, una malattia che per dire anni prima si potevano guarire, ti ha creato delle sostanze che sono, ti rendono autoimmune, magari al virus, però magari ti prende un altro virus e l'organismo non reagisce, ti curano con gli antibiotici e non reagisce, non sappiamo niente, sono terapie molto avveniristiche, magari nel futuro saranno normali, sono la prima volta che li utilizzano sull'uomo, io mi devo fare la cavia di lì, ma stiamo scherzando, fine munita. Beh, la cosa brutta è che stanno costringendo ai bambini, se tu lo vuoi fare per la scuola devi fare il vaccino, a un bambino di 12 anni, ma perché cacchio sei mai visto, agli insegnanti, ai professori, anche ai medici soprattutto, e molti meno male hanno deciso di non farle, vediamo come va a finire, ma succederà la guerra, non ci credi. Sassari è più vaccinata di Cagliari. E quindi vuol dire che sono più imbecille che a Cagliari, cosa significa questo? Vabbè, ognuno poi è libero di fare quello che vuole, se tu non ti vuoi vaccinare, Robert, ma tu sappi che in tanti posti non ci puoi andare, se uno vuole mangiare, tipo un esempio, ti invitano a un matrimonio, se non hai il Green Pass tu non ci vai. E a te chi te l'ha detto? Io mi faccio il tampone e dentro lo stesso, chi te l'ha detto a te questo? Ah, vabbè, ti fa il tampone, se risulti positivo tu vai a entrare. E tu invece che ti sei vaccinato, sei positivo e contagi tutti gli altri, sei tranquillo invece. Ma assolutamente no, no Robè. Se l'hanno fatto vuol dire un motivo, cioè sai, guarda, su 100% sai il 10% di persone che si lamenta che non se lo fa. Non è proprio così, come mai sono cagati sotto, come mai? Devono raggiungere l'80% della popolazione e sono, loro dicono, ancora il 60%. La gente sta iniziando a venirgli i dubbi quando hanno capito che c'è la possibilità, anzi la certezza di una terza dose. Inizia a pensarci un pochettino, come mai non è servita la prima, la seconda, vi facciamo la seconda e adesso ti vogliono fare anche la terza dose e si parla anche di una quarta dose. Spiegami un pochettino quello, vuol dire qualcosa di strano, cioè che non sono sicuri neanche loro. Come la prima, i bambini assolutamente non fanno oltre meno di 16 anni, adesso la stanno facendo anche ai bambini, visto che non ci sono casi, non esiste esistono casi statistici di morte tra i bambini, non è morto un bambino di Covid, non è morto uno, ne sono morti tre nel mondo su un miliardo di persone, una cifra irrisoria, poi probabilmente avranno tre. Come mai tu costringi un bambino a farsi il vaccino se non ha possibilità di essere, cioè non di non prenderlo, di morire? Spiegamelo tu. È possibile una roba, là. Più avanti si vedrà cosa succede. Adesso è così, poi vedrà, si vedrà. Aspetta l'autunno quando ci sarà di nuovo lockdown, e tu che sei vaccinato ne riparleremo quando siete di nuovo tutti chiusi in casa, i vaccinati e i non vaccinati, non cambierà assolutamente niente. L'unico problema è che ci saranno discriminazioni per i non vaccinati, che la colpa è di quelli lì, eccetera eccetera. Tu renditi conto, Israele 85% popolazione sana, vaccinata, Islam 90%, ci sono più casi di Covid in qualunque altra parte del mondo tra i vaccinati. Spiegami una cosa, se mi metti una spiegazione io ti dico mi faccio il vaccino, ma non sanno neanche loro. In Svezia nessuno si è vaccinato, in Russia quasi il 10% della popolazione è vaccinata e c'hanno il vaccino prima di tutti e non se ne va nessuno. Come mai? Spiegamelo tu. Ciao qui. Allora, io ripeto, Gianni, Luca e Antonio, ognuno è libero di farsi quello che vuole, io accetto tutto, come quello che si fa il tatuaggio, però tu non puoi obbligare una persona che non se ne vuole fare, poi si prenderà le conseguenze, brutte o belle, se le prenderà. Non puoi obbligare una persona, lo dice la Costituzione italiana, tu non puoi costringere una persona a prendere una sostanza se non ha la sua volontà, a meno che non sei uno psicopatico e ti fanno il TSO. Cosa vuoi dire, caro me? Così è. Purtroppo sì, vabbè, ma fanculo, cioè, un vaccino, però, cioè, non vado a essere vaccini, però come tutte le cose la stanno esagerando un po' troppo questa situazione. E non va bene esagerare così. Poi i bambini io non sono d'accordo, fino a una certa età lasciali stare i bambini, non c'entrano niente. Può fare noi grandi, eccetera, eccetera, però i bambini la carità. Perché no, non va bene. Magari fino a 16 anni, niente. Tanto, il bambino, io mi auguro con tutto il cuore, perché sono vaccinate le mie figlie, una ne ha 19 e l'altra ne ha 24. Io mi auguro con tutto il cuore, perché ci sono passate anche mie figlie, mie sorelle, i miei cugini, tutti, la maggior parte si sono vaccinati, gli amici miei la maggior parte. Io mi auguro che a lungo termine che non succeda niente, perché nessuno lo sa cosa può succedere tra 10 anni, quando per dire un bambino di che adesso ha 12 anni, tra 10 anni ne ha 22, io lo vaccino, cosa ne so che magari gli viene una nuova forma di malattia, oppure diventa sterile e non può avere figli, oppure il figlio che nasce strano, non sappiamo niente, non ci sono statistiche di niente. E io mi devo iniettare a un bambino di 12 anni, mi devo iniettare una sostanza che magari può funzionare, però i benefici sono inferiori ai rischi. Io dico sempre, in un bambino non ci sono percentuali di morte, statisticamente non esistono morti nei bambini, per cui perché io devo iniettare una sostanza con il rischio di creargli degli effetti a lungo o a breve termine pericolosi? Non dico un adulto, tanto se vai a 50 anni figlioli non te ne vai più, si prevede non te ne fai più, magari diventi serio e non te ne frega, ma un bambino di 12, 13, 14, 15 anni, perché cacchio devo iniettare una sostanza se non esistono casi di morte? Spiegate, è come che io dico, mi può venire il mal di denti e mi faccio l'anestesia al dente, ossia che mi venga la stessa cosa. Non so, chi è che voleva parlare, avanti? Ma comunque per ogni cosa, all'ospedale, ti fanno ogni volta il tampone, se non ti fanno entrare, ti può succedere qualsiasi cosa, robè. Non è così, no, non è così come dici tu. Poi, ovviamente ognuno fa quello che vuole, però non è come dici tu, tante cose, anche dal dentista lo stesso. Cioè non c'hai, ti può venire un mal di denti forte, come cazzo fa dal dentista? Ah, prima ti fa il tampone e poi vai dal dentista. Allora, tu, quello che saranno la risposta, Luca, è la risposta di tutti quelli che ci hanno fatto il vaccino, a parte qualche dottore che effettivamente ci crede, tutti quelli che hanno fatto il vaccino è per essere liberi di entrare a fare qualunque cosa. Prima di tutto non sarà mai così, ricordatevi che la libertà l'avremo messa, non avremo più la libertà di 5-6 anni fa, 3 anni fa non l'avremo mai più, indipendentemente dal vaccino. Tutti ci hanno fatto, la maggior parte, per questo discorso, per avere la libertà. E qui che cacchio di libertà, se devi entrare devi avere la mascherina, se devi entrare allo stadio ci devono essere i limiti di capienza, e poi ti hai fatto il vaccino e contagi lo stesso. Ma di cosa stiamo parlando, Lu? Se tu mi dai la certezza che effettivamente non mi prendo il Covid, oppure se mi prendo il Covid non ci sono effetti, io sarei il primo a farlo, siccome non esiste e me lo metti per iscritto. scritto questa roba e non mi fai firmare, nel senso, in caso di effetti collaterali non ci assumiamo nessuna responsabilità e te lo fanno mettere per iscritto. Di cosa stiamo parlando? Non lo sanno neanche loro, Luca. Tu, come hai detto tutti, solo per la libertà, mie figlie me l'hanno detto, per la libertà a me non posso andare dove vuole. Ma che cazzo di discorsi sono? Io faccio una malattia, una medicina per curarmi, non per darmi la libertà, non confondiamo. Sì, ma allora, io ti ho fatto una domanda, se dovesse venire un mal di denti, come cavolo fai che non c'è né vaccino né niente? Come fai? E tampone dopo lo fai? Luca, io non ci sto neanche pensando a quello, io penso a oggi, se mi dovesse venire il mal di denti ne parliamo, e tu, e se ti viene il mal di denti e c'è il vaccino e sei contagioso non ci puoi entrare teoricamente neanche tu, perché si dice quello per entrare. Allora ricordati, tutte le attività pubbliche di un certo livello sono tutti vaccinati, e quelle di un certo livello ancora un po' più importante, e parliamo di attività tipo la RAI eccetera eccetera, ogni giorno si devono fare i tamponi, i giocatori di calcio la maggior parte sono vaccinati, ogni giorno si devono fare tamponi, perché anche se sei vaccinato c'è il rischio di Covid, per cui stai dicendo, se tu c'hai il Covid e sei positivo ed hai fatto il vaccino non ti va a entrare comunque, ricorda, e c'hai gli stessi rischi miei precisi identici, perché io il Covid in questo momento posso averlo come ce lo puoi avere tu, siamo tutti e due asintomatici, per cui di cosa stiamo parlando? Vabbè, ognuno la pensa come vuole. Avanti Gianni. Io per dire sabato non sarei entrato al ricevimento del battesimo di mia nipote, perché hanno chiesto il green pass all'entrata, chi non aveva il green pass non entrava. Allora, se tu proprio ci tenevi e non avevi il vaccino, dici io ci tengo al battesimo di mia nipote, vado in un ufficio, in una farmacia, ti biasi a un prezzo gratis e ti faccio il tampone salivare per quelli che hanno problemi magari al naso che li fa male, ti fa un tampone salivare e li porti e glielo sbatti in faccia, questo famoso green pass. Tu che ti hai fatto il vaccino, cosa ne sai che non sei contagioso già? Come mi hai detto pure tu in quella clinica di anziani, non è ancora RSA, non so curante Veneso, contagiati, erano tutti vaccinati, spiegami tu quello. Ma dice che praticamente, a quanto ha detto un virologo, perché io anche io ascolto i programmi, questo virologo ha detto che sì, si può prendere ugualmente chi è vaccinato, ma non prende in forma leggera, non finisce di certo in terapia intensiva. In base a cosa lo dicono questo? C'è una statistica che ti dice prendiamo 100.000 persone, gli facciamo il vaccino, gli buttiamo il Covid e vediamo quanto dura, come quello che è morto, hai sentito cosa ha detto quel Moody? Ma sarebbe morto prima, ma è morto lui Mattesi, ha preso il Covid e è morto lo stesso, che cazzo stiamo a dire? Non esiste una statistica, non stai facendo la macchina con l'olio, funziona, senza olio grippa, non esiste, qua in medicina non c'è niente di vero, perché non esiste la prova contraria, e come dice, non fate il vaccino dell'influenza, però me la son presa più leggera, in base a cosa l'hai stabilito, perché c'è una controprova, stanno dicendo fesserie che non si possono dimostrare scientificamente, tu quando fai una cosa devi dimostrare con le statistiche, prendi 100.000 persone, no 10 persone, 100.000, fai tutte le prove eccetera eccetera, a quel punto questo li contagia il Covid, vediamo quanto dura senza la malattia, quanti giorni gli viene la malattia e faccio le prove, così si fa, non le hanno fatte, le prove siete voi adesso, quelli che sono fatte il vaccino sono le statistiche, che adesso le vedranno. Abbiamo fatto 100 milioni di vaccini, di questi 100 milioni ne sono molti 1.000, di questi poi ce ne sono stati 5.000 hanno avuto effetti collaterali, poi di questi così si fanno le statistiche, non prima di fare il vaccino, che il vaccino non l'hanno sperimentato, sono partiti senza far nulla. Io ce l'ho in casa, c'è la mia compagna che non ha voluto fare il vaccino, ma io me li ho fatti lo stesso, per un'evenienza, poi vediamo. Però c'è una cosa, che quando dobbiamo andare nei posti, si non può entrare se non c'ha i vaccini, capito? E con tampone in certi posti non, magari non ti accettano, ci vuole il green pass più. Aspetta ancora un pochettino cosa ne esce, quando inizieranno i ristoratori a fare la guerra, adesso stanno lavorando perché ti permettono di mangiare fuori, io ho amici che hanno un bar grosso, importante, ne hanno tolto tutti i tavolini là dentro e mangiano tutti fuori, il caffè eccetera eccetera, tu aspetta l'inverno quando vedrai la gente che tutti, almeno un 30% non avrà il green pass e avranno un calo di lavoro, perché io se vado in compagnia per dire di una comitiva e io non ho il green pass, due ce l'hanno e l'altro non ne ha, allora dice no, non ci andiamo, non ci vanno neanche quelli quelli che hanno il Green Pass, se c'è la solita compagnia, ricordate di quello lì. Per cui aspetta cosa ne esce, hanno fatto vedere dei ristoratori, vai a Gardaland, il giorno dopo che hanno preso il Green Pass, 60% in meno di ingressi. Cosa vuol dire 60%? A Gardaland si paga 60 euro, 50-60 euro per entrare. Il secondo giorno che hanno messo il Green Pass, a Gardaland hanno preso il 60% di clienti e siamo d'estate. Aspetta, come si chiama? La parte di Sorso ha chiuso, lo sapete voi, ha chiuso per fallimento, ve l'hanno detto. Che cosa? La parte di Sorso ha chiuso, lo sapete voi. Sono le porchine. Water Paradise. Ah, vero? Non sapevo niente. Ah, ci devo mandare mio figlio, adesso glielo dico perché dove farà andare. Comunque, Robè, c'è il fatto che c'è chi te li chiede, che no, io ieri ho mangiato all'interno di questa pizzeria dove era pieno, fuori, dentro, sopra, sotto, pieno, tempo di gente, come fai a chiedere Green Pass a tutti? Se tu vedevi i camerieri che correvano da una parte all'altra, che non c'erano, stavano un attimo fermi, tu immaginati come fanno a chiedere Green Pass quando hanno tutte queste persone da servire. E lo vedi che stai tornando a me, la bile da parte, se ti mettono la contravvenzione, perché lui entri dentro, ti trova senza il Green Pass, lui ti dice una balla, dice sì ce l'ho il Green Pass, ti do nome e cognome e ti racconta una bugia, viene la polizia, la finanza, quello dice tu hai dichiarato il falso, dopodiché ti mettono una contravvenzione, questa contravvenzione lo sai cosa succede, tu non paghi niente, la prendono e la fermano in prefettura, ci sono tutte quelle contravvenzioni che hanno messo per i DCTM, quelli quando non si poteva uscire eccetera, sono tutte ferma in prefettura in attesa che esca una legge per eventualmente farle pagare, perché sono tutte anticostituzionali, sanno se tu fai pagare una cosa del genere ci saranno 10.000 avvocati che contraddiranno eccetera, ti farà da qualunque giudice e ti darà la vittoria, per cui hanno tenuto tutto fermo, c'è gente che l'ha pagata, ristoratori che l'hanno pagata perché devono lavorare, tutti quelli, il 90% nessuno ne ha pagato e sono ferma in prefettura, informati e beh, mi muore la muta, cosa vai tu? Non mi fa niente, mettimi, segnami, c'è gente ne aveva 10 di queste contravvenzioni e quindi non hanno pagato neanche una lira, perché sono delle cose, delle sanzioni che non esistono, in nessun articolo esiste una cosa del genere di creare queste, di togliere la libertà alle persone, ci sono un sacco di cose da dire, da. Io la ti dico, aspettiamo quando inizia il freddo e vediamo cosa ne esce, che i locali, quei famosi locali che tu andavi a ordinare per asporto, ti ricordi, e ti facevano, gli facevi un favore, vediamo come va a finire quando non ci sarà più di gente andare a comprare, vediamo cosa ne esce, ci sarà la guerra mondiale, avanti di nuovo e avanti Luca, dai, che se no tu non parli, c'è anche Antonio comunque, cappa, problema di questa storia qua che ci stiamo facendo la guerra fra di noi e, no, e non va bene questa storia, cioè per una cazzata del genere si sta provando odio uno con l'altro, cioè magari anche chi fa il proprio dovere, non so se l'hai visto anche quel video, questo non c'aveva il Green Pass, si è affariato un poco, quindi l'ha pigliato e polizia locale lo stava arrestando, gli ha messo le mani addosso, un casino. Ci sta arrivando al punto di odiarci. Ah, tu hai detto la cosa più bella, ci sarà discriminazione, e c'è già, io ho degli amici che sono assolutamente per i vaccini e per dire abbiamo tanti contratti, infatti molte volte non prendiamo i vaccini sennò ti affarremo. Voi ricordatevi una cosa, quando c'erano quegli scemi con i droni che andavano a controllare nelle spiagge gente passeggiando, eccoli l'abbiamo preso, ce n'è uno correndo in spiaggia da solo, quel pescatore subacqueo, ricordatevi solo di quello, di questi imbecilli che stanno facendo queste leggi, che non c'è stato un drone per vedere gli incendi che stavano partendo, pensate solo a quello, che hanno distrutto, bruciato tutto e non è intervenuto nessuno, fino ad quando non hanno bruciato tutto, però andavano con i droni, con gli elicotteri, i carabinieri, polizia eccetera, a cercare le persone che andavano a piedi, quello col cane dovevi mettergli la cosa e chiedergli se era nel quartiere suo, ma vi rendete conto che state perdendo la libertà, quello è la cosa più grave, il vaccino è una scusa, non c'ha niente a che vedere, state perdendo la libertà, e qui lo dirò sempre, stiamo perdendo la libertà e la gente non se ne rende conto e sta cercando di creare la guerra tra i vaccinati e non vaccinati, costringere i non vaccinati per forza, con la forza a vaccinarsi. Ma per cosa? Cioè, ma io la verità, io non odio nessuno, rispetto sia il vaccinato che non il vaccinato. Io non odio, non proporre odio per nessuno. Però purtroppo lascia perdere me, che a me non me ne fotti nulla, cioè se fosse per me andrebbe bene lo stesso. Però le forze dell'ordine o chi sta reggendo troppo male, cioè poi chi tu già sarieggia e quello li mette le mani addosso, cioè una porcheria ne sta uscendo. E adesso va più gli fatti, bacino. Cappa, oggi ho fatto l'ultimo, ma io non è un problema per me, cioè per me uno che lo fa e non lo fa non me ne fotti nulla. Il problema è che devi stare a lottare con queste cose qua, tu di costituzione cose, danno già porzioni manetti di zibosciane, poi magari partono schiaffi, partono risse, cose, gatti zibosciane, un casino qua. Sta pensando che ci sarà un odio con le persone, quando ci saranno di nuovo il lockdown, vedrai, quelli vaccinati daranno la colpa ai non vaccinati, ci sarà la caccia ai non vaccinati, ma quello è non vaccinato, picchiano, come succede per dire quando ci sono cose di religione, eccetera, eccetera. Chi di Sozzinga, di Cudilo, chi sono il ladro, chi sono e Tussi, succederà così, metteranno la popolazione una contro l'altra. E a quel punto ci saranno ancora più restrizioni, perché ne sono stanchi anche i poliziotti, ma tu li hai visti i poliziotti mangiando fuori in strada, perché nella messa non li facevano entrare, o quelli dell'Ikea, tutti i dipendenti mangiando fuori. Ricordatevi la libertà, la prima cosa è la libertà. Solo la gente si fa il vaccino per la libertà, no, per avere la sicurezza. Il 90% delle persone si hanno fatto il vaccino, sono convinti che gli diano la libertà. E la mascherina ce l'hai uguale a me, Gianni, tu quando entri dentro il ristorante o la pizzeria ce l'hai uguale alla mia, io che non sono vaccinato. Ma io sono più protetto. Ehi, auguri già, auguri. Infatti si vede che anche nelle zone di gente, ti ho fatto l'esempio di quelli delle Olimpiadi, tutti vivevano in ambienti super controllati, tamponi tutti i giorni, tutti vaccinati, ogni nazione aveva il suo reparto, per cui non si incontrava con gli altri, le premiazioni con le mascherine, non si toccava nella mano, niente, 492 contagiati, tutti vaccinati. Guardati la squadra di calcio dello Spezia o dell'Atalanta, quanti ce ne sono di contagiati? E poi mi ritornerà la risposta. Ma non è, il problema è, ma secondo me la stanno facendo anche lunga, la stanno facendo robe, come tutte le cose è sempre la solita storia. Da una cosa la soffendi manna manna, bisogna avere questi tamponi pure se sono buoni, perché io conosco persone che col dubbio se ne hanno fatto fare altri di tamponi e poi non va via nulla. Anche quello c'è da dire, mamma mia, lasciamo perdere. E magari l'anno passato di Romatesi, ma Covid, l'anno passato, cioè c'è stato anche bitici per quello. Ne è diventato un casino di questa storia. Allora, scusa già, il tampone ti misura la carica virale, però tu puoi avere anche un raffreddore, un'influenza, una leggera, una qualunque cosa puoi avere, e loro dicono c'è una carica virale, ma non è detto che c'è il Covid. Per avere il coso deve fare il sierologico, deve prendere una particella di sangue, a quel punto guardano se c'hai queste cose qua, diciamo del Covid, questo virus. A te presente il virus, ce ne sono milioni, no migliaia, milioni nell'aria. Basta che tu appoggi le mani su un tavolino, c'è già un virus, ci sono quelli più aggressivi, quelli più pericolosi, quelli nu, ce n'è una marea. Però non ti puoi fare un vaccino a ogni virus che esiste, tra l'altro il virus si modifica, è come l'influenza, a settembre fanno il vaccino e a febbraio è già la variante diversa, come sta succedendo, è dimostrato scientificamente per quello, per cui di cosa stiamo parlando? La libertà ci stanno togliendo e la gente non l'ha compresa, ci tolgono la libertà e soprattutto faranno bisticciare, per non dire altre parole, le persone, perché qua ci saranno guerre. No, tu non c'hai il vaccino e non puoi entrare, io ho il Green Pass qua, e si picchieranno per queste cose qua, vedrai cosa annisce finché non lo tolgono questo Green Pass malodo, perché tu, possibile che tu nell'autobus ci sono 50 persone una addosso all'altro e non hai bisogno del Green Pass, mentre quando entro nel coso allo stadio, che è un campo aperto, e cosa devo avere il Green Pass? Ma di cosa stiamo parlando? Sì, vogliono riviste e certi leggi, ma non è sbagliato, Robe, secondo me non è una questione di diritti alla libertà, è per prevenire e proteggere anche le persone. Ma già, io sarei stato il primo in assoluto, se avessi la certezza che il vaccino funziona, ti dice sì, ti toglie la possibilità di prenderti il Covid, non dico al 100%, in grandissime percentuali, non ti ammali, non succede niente, o se te lo prendi in forma lì. Assolutamente è dimostrato che molta gente, a parte che molta gente è per il vaccino, la gente è vaccinata e non lo dicono, perché se tu guardi l'elenco delle persone che sono morte vaccinate, ti dici, ma c'avevate patologie, prima no, quelli che dicevi che erano morti senza il vaccino non ne avevano di patologie, era sanissimo eccetera, ma di cosa stiamo parlando? Teniamo un'ira già di riflessioni, ci raccontano tutto quello che voglio, ma tu ti ricordi i guanti, bisogna mettere i guanti per entrare nei locali, nei supermercati, poi si sono resi conto che i guanti erano pericolosi perché attirava le mascherine e non servono a niente, perché il virus passa all'interno della mascherina, passa all'interno della pelle, il virus è 600 volte la dimensione di un cappello, di una misura nanometri, stiamo parlando di millesimi di millimetri, passano dentro i puri della pelle, mi pongo la mascherina, è come che io faccio uno scorreggio dalle mutande, adesso la puzza, la stessa cosa, precise identiche, devi andare, una respirazione autonoma, come quando c'era l'ebola, li avete visti, chiusi dentro scafandri, in quel caso lì sei sigillato, ti sterilizzano prima e dopo che te ne hai tolto il camice, cosa che stiamo parlando, mascherine, guanti, eccetera, sono pillate barufonde, è una presa per il giro. Luca, ci sì. Io ripeto, mi dispiace per i giovani, io grazie a Dio un po' di vita me la sono goduta, tu eccetera, Antonio è molto più giovane, ma cacchio, quelli giovani, perché li devi fare dei rischi se non c'è la necessità? Questo è il guaio grosso, se non c'è la necessità il rischio supera il beneficio, e questo è il problema, tu non puoi obbligare, chissà perché l'Italia è l'unica nazione d'Europa che stanno obbligando per i giovani a fare il coso, il vaccino, lo stanno rendendo obbligatorio per i giovani, l'unica nazione in Europa, l'unica, perché tutte le altre nazioni hanno negato la cosa, come lo negava prima chi faceva il vaccino, ormai due mesi fa non si può fare a meno di 16 anni, adesso sì, abbiamo verificato che anche a 16 anni si può fare, in base a che, se non hai vaccinato neanche uno, in base a che statistica l'hai verificato, di cosa stiamo parlando? Poi ognuno fa quello che vuole, ripeto, siete liberi di fare, però non bisogna discriminare nessuno, perché stanno facendo un casotto per i gay, per quello, per l'altro, le coppie di fatto, questa cosa della discriminazione non ne parla nessuno, eppure c'è una legge europea che dice chi non si deve fare il vaccino non deve essere discriminato, in Italia questa parola l'hanno tolta, chi non si fa il vaccino l'hanno eliminata dall'articolo della Comunità Europea, informatevi bene a vedere cosa succede, stanno cercando di creare come si chiama, la battaglia tra i vaccinati e non vaccinati, e deve essere una cosa libera, è come quando io vi faccio un tatuaggio, se me lo voglio fare me lo voglio, non me lo devo fare e non me lo devo fare, ok, di nuovo altro. Lo so, no, io la verità non discrimino nessuno e non mi interessa discriminare nessuno, però cavolo, cioè, stiamo esagerando veramente, un mettersi uno contro l'altro no, non va bene nemmeno, perché non è giusto, ma neanche tanto quanto per noi comune mortale che magari sì, c'è quello che discrimina, io non sono uno di quelle, perché a me non me ne ha fotti nulla, cioè, però le forze dell'ordine, basta che tu fai una cosa un po' gare sbagliata, protesti, fa te da volte, e ci pigliano di buone manette e ti si bocciano, non fate ne chi va a tirare le longhe assai, no? Non è proprio così, adesso la gente sta iniziando a svegliarsi, a aprire gli occhi per il discorso della terza dose, ti ricordi, io l'ho detto dall'inizio, te l'ho detto ripetendo da maggio, che dicevo guardate c'è già la terza, e tutti non è vero, aspetta un pochettino, a ottobre c'è già la terza dose, eccetera eccetera, ma cacca, adesso la gente sta iniziando e tu sei il primo a dirmi, e io la terza dose non me la faccio. E poi vedrai quello se fa la terza dose, ma ci sarà anche la quarta dose, eccolo. Ah no, allora iniziano a venire i dubbi alle persone, e come mai prima ci hanno detto, ma stava, ma ti prende in modo più leggero se te la fai. E questa è la cosa più brutta, ti prende in base a cosa l'hai stabilito. Esiste una legge fisica, matematica che ti dice che ti prende in modo più leggero. Ti dico che stiamo parlando. Lo so, ma è tutto un casino, per carità, no. Non è così, no, perché io ho visto quel video là l'altro giorno, ha pigliato che subito l'ha portato le mani in alto e che ci ha patacchito che era un bucarotto. Cioè, se trova un tipo come me, cazzo, dico una... gli arrivi cazzo una sventagliata di bugna a faccia, l'arrivi. Cioè... Però anche il Buruguita è esagerato, pure la cafigia, voleva entrare a tutti i costi, voleva entrare... Eppure è successo un casino davanti alla bambina, pure. È successo un casino enorme. No, io quello non lo farò mai. Combatterò sino alla morte per questa libertà. Io oggi, prima di andare, ho telefonato, ho detto... avete il luogo, assolutamente, dice assolutamente, ci abbiamo il luogo all'aperto, a parte che dentro non vedrà nessuno, che c'è anche un po' di caldo a stare all'interno. Poi stavo parlando col tipo e mi ha detto, io il vaccino neanche molto me ne faccio, il proprietario, ieri si è fatto il vaccino il mio pizzaiolo, mi ha detto un omone e non ci viene oggi, mi ha telefonato che si sente male. Di cosa stiamo parlando? Lo so, e a molti li prende un bel male, li prende, la verità. No, ma la nena sta nascendo una guerra fra poveri, cazzo. Hai detto beh, dai, io adesso però vi saluto, signori, vado a mandarmi qualcosa. Ciao Antonio, grazie alla chiacchierata, ciao Gianni, ciao Luca, eventuali qua amici in ascolto, che sicuramente ce n'è qualcuno che avrebbe avuto piacere che dicesse la propria. A me basta mi dare delle risposte, io faccio le domande e mi date le risposte. Purtroppo quelle domande che ho fatto, sino adesso nessuno me le ha date. Ok, di nuovo, ciao ciao a tutti, buonanotte. Ciao Robert, buonanotte, buona cena. E il problema iniziale è stato questo per me. Avevano detto che ci voleva almeno un anno per scoprire il vaccino per il virus, e dopo pochi mesi nella ricavatura. Chissà cosa li busta in mezzo. Tante cose ci sono in giro. Danno in cavata c'è bucaria dai laboratori, ho il sospetto che qua hanno bruciato macchine, poco fa ho sentito pum pum pum avanti in via cui bruciato, se non è che hanno fatto, non sai cosa succede, che se sei vecchio fanno i fuochi d'artificio quando arriva la roba. No, secondo me no, si è sentita la pattuglia poco fa. Ogni tanto mette un fuoco a qualche macchina. Scappa. E beh, cantando state. Ce l'ha portata. Allora. Se qualcuno vuole entrare, avanti. Molto ti arriva a te. A me con lo scappo. Vai tu. Vabbè, io sì, 9:30 arrivo, No, 9:60, 9:30, mi arriva sino a 9:30, al più del 9:30. Capa, io non sono così forte, è vero? No. Hai già compreso. 5. Capa, ti stavo dicendo già che è così, dove cavolo ero rimasta, non me ne ammento più. Manco io, ho perso il filo del discorso. E vabbè, comunque gira che ti rigira, una pesa in una maniera, una pesa nell'altra, diciamo a conti fatti, a me mi hanno chiamato al centro diabetico per dire, mi hanno detto, se non vedo deve fare il vaccino lì, diabetico lo sa, quindi deve fare il vaccino perché è a rischio. E cosa va a dire? Vabbè, hai fatto quello che devi fare, basta, finito il discorso, non c'è problema, non è quello il problema. Infatti c'è gente che la pensa diversamente, come tutte le cose, c'è la destra e la sinistra, c'è il nero e il bianco e via dicendo. Ognuno la pensa a modo suo. E beh, cantando state sempre. Sì, la sera sì. Quando non lavoro già cantiamo. Ho imparato pure io. Oh. Eia. Cavolo, te che stai seguito. mi si è silenzio. Ho imparato pure io a cantare, a perfezionarmi sempre di più. Rose rosse per te ho comprato stasera. Il giorno era un po' cotto, però abbiamo fatta bene, dai. Che da, so. A pizzi. Davi, praticamente ci mettevi troppo tra una parola e l'altra. Vabbè, comunque, quella era la pausa della cultura. già lo sai, se no mica la canto così. Mia cultura, la di. Ma mi si la via, non ti aiuta a luce. Erami in feccia, erami. Me ciucuccio è entrato. E beh, la matta delle guaria. Ehi, è Pomponio. Non è Pomponio questo. Ah, ho capito chi è. Capa, lui a te non mette la cottura. A che Luca c'era? L'ha fatto secondo te. Ma c'è una cosa. Ma quello mi sembrava che la voce sola l'avevo sentita. Ma è un circolo diverso, un po' strano che sia, che non sia il circolo del mondo. Era. Ma l'ho fatto io il video. vabbè. Uno si diverte, dai. Non è che uno